Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica, bentornati a Magazine 24, l'appuntamento di questa domenica 14 marzo. E vorrei cominciare suggerendovi un capo di abbigliamento un po' curioso, qualche capo di abbigliamento un po' curioso. Non credo che siano cose ancora in commercio, ma potrebbe capitare di vederle presto. Ad esempio, non vi piacerebbe un bel paio di scarpe Zen? A ogni passo la calzatura offre un massaggio nei punti della riflessologia plantare indirizzati al plesso solare, che è il centro dell'energia emotiva. Non finisce qui, la scarpa può emanare luce grazie all'energia cinetica dei passi. È uno dei tecnocapi che trovo segnalati su Wired di questo mese. Wired ne elenca addirittura una decina. Sono abiti che potranno contenere più tecnologia di uno shuttle, e le notizie arrivano dall'Inghilterra. Ci sono un gruppo di designer che grazie a un trasferimento, una rete di trasferimento di conoscenze, hanno scoperto tecnologie e materiali inediti. A raccogliere questo catalogo di capi d'abbigliamento del futuro, ma direi del futuro prossimo in qualche caso, è stata Alessandra Viola. Ad esempio, la prima che viene citata dalla collega è la maglietta a braccio. C'è un accessorio Bluetooth, di fatto indossata la maglia basta toccare i sensori che sono nascosti nel tessuto per trasmettere via SMS l'intensità, la dinamica, il calore di un abbraccio a un altro che indossa lo stesso tipo di maglietta. Oppure il vestito cinetico, un vestito cioè che reagisce in base all'attività e all'umore di chi lo indossa grazie a sensori inseriti in un tessuto elastico, insomma qualcosa di simile a certe pietre di cui talvolta si possono trovare degli esemplari su qualche bancarella. La differenza, par di capire, è che queste pietre non avrebbero una grande capacità di reazione, mentre questo vestito cinetico così tecnologico dovrebbe averla. Dovrebbe funzionare più o meno così: movimento e pH corporeo condizionano colori e fantasie grazie a un algoritmo, quindi se si sta fermi il vestito è nero, dopodiché se le cose non vanno bene potrebbe anche restare nero, ma invece muovendosi, insomma attivandosi, le cose potrebbero cambiare. Si sta pensando anche dei guanti tridimensionali, cioè modellati con un software che stampa il materiale direttamente sopra la scansione alla forma di una mano, quindi un sistema di personalizzazione estrema che potrebbe anche aprire poi la strada ad abiti realizzati su misura in pochi clic con scarti di materiale pari praticamente a zero. La gonna luminosa, ovvero un sensore elastico che illumina dei piccoli LED che compongono una scritta mentre si cammina, può essere utile per trasmettere messaggi o avvisi, però non viene segnalato che questo annuncio non si potrà cambiare ogni mattina, quindi bisogna poi sceglierlo con una certa cura. Ci sono poi le scarpe Zen di cui vi avevo già parlato e vi leggo ancora un paio di capi. Si potranno fabbricare presto le giacche on off, cioè dei capi provvisti di interruttori in tessuto per comandare il cellulare o l'iPod direttamente, che so, da una manica, realizzati con un materiale che è in grado anche di trasmettere deboli correnti elettriche in risposta a stimoli di pressione. Sono provvisti anche di un sistema di riscaldamento e quindi giustamente Alessandra Viola su Wired chiosa: manca solo che preparino il caffè. E infine tessuti musicali, cioè dei tessuti, ad esempio un top, provvisti di sensori elastici che insieme a un software per la musica producono dei canali alterati di suono durante una performance musicale, quindi uno suona uno strumento e questo capo è in grado di personalizzare la sua esecuzione. In fondo si potrebbero anche creare delle sonorità, avverte Alessandra Viola, per che ne so, le lavapiatti oppure le assi da stiro, e quindi in questo modo personalizzare, vestire musicalmente con un sottofondo adatto anche questo tipo di attività quotidiane. Sono cose che forse in qualche caso vedremo, potremmo magari acquistare molto presto, vedremo poi quali di queste potranno avere maggiore fortuna. E visto che parliamo di futuro, lo stesso numero di Wired di questo mese ospita un'intervista a Nicolas Negroponte. Nicolas Negroponte è un guru, persona ritenuta capace di vedere il futuro, di interpretare il presente nel modo più efficace in quanto alla sua possibile proiezione. E allora da questa lunga intervista che viene presentata su Wired traggo due spunti. Gli si chiede: hai sostenuto che internet dovrebbe essere gratis, se in Italia la rete non decolla è un problema di tariffe. La risposta di Negroponte è appunto tranchant, direi da guru. Internet, risponde, dovrebbe essere come i marciapiedi, c'è qualcuno che paga per passeggiare. Gli si obietta: beh, però in realtà noi paghiamo i marciapiedi con le tasse, cioè pagando le tasse noi in realtà paghiamo la manutenzione e la realizzazione di marciapiedi. Appunto, risponde Negroponte, perché camminare è un diritto, non un lusso. Così su internet, dove passano comunicazione e conoscenza. Le telecomunicazioni sono una parte essenziale dell'educazione e gran parte del ritardo italiano dipende da questo collo di bottiglia. Ma se internet, lo incalza Riccardo Luna che lo intervista, fosse gratis, le società di telecomunicazione che fine farebbero? Beh, risponde Negroponte, su un marciapiede c'è qualcuno che paga. Paga chi mette un negozio, chi mette un'attività commerciale. C'è sempre qualcuno che paga anche nel mondo digitale. Io ad esempio sono nel board, nel consiglio di amministrazione, del Wall Street Journal, che è uno dei pochi giornali a far pagare le news online. E qui arriva una delle domande che mi ha interessato di più, per motivi naturalmente molto personali e professionali. I giornali, gli chiede Riccardo Luna, sono spacciati? La risposta di Negroponte è spacciata la carta. Solo in inglese la parola giornale ha la carta nel nome, si dice newspaper. Ma il grande giornalismo, le analisi, le opinioni saranno sempre più importanti, io lo dico da anni. Quindi questa è la profezia in qualche modo di Negroponte: la carta, diciamo l'informazione su carta, ha una vita probabilmente dura, una vita non comoda negli anni a venire, nel presente e negli anni a venire. Non così l'attività giornalistica, l'attività di informare. Non gli viene chiesto nulla della radio, quindi noi possiamo pensare che la profezia di Negroponte non abbia nulla a che fare con il programma che state sentendo, con l'emittente che state seguendo. Emittente alla quale naturalmente auguriamo tutti un radioso, radiosissimo futuro. Invece noi restiamo sulla rete, sulle cose che succedono sulla rete, perché riprendendo vita, se qualcuno ha seguito la puntata anche ieri mattina, sabato mattina, sa che abbiamo già citato il settimanale Vita per un altro tipo di inchiesta, ma riprendendo proprio dal settimanale Vita, che è il settimanale dedicato al no profit, c'è un lettore che manda una lettera in cui ritorna sulla questione di Google e del video in cui per il quale Google è stata condannata, un video in cui appunto si vedevano degli atti di bullismo. La sentenza ha fatto molto discutere, tra l'altro anche sulla rete, su chi si occupa di internet, chi si occupa di informazione. Ma scrive Alessandro da Milano, scrive a Vita e dice: io invece ringrazio Google perché non ha censurato quel video. Spero che Google faccia ricorso, e lo dico da pedagogista, perché lavoro da molti anni nella prevenzione della violenza e del bullismo in ambito scolastico. Sono veramente sorpreso per la condanna di un web per quanto è accaduto, così come delle motivazioni dei magistrati che pare non abbiano capito cosa sia successo davvero in Italia dopo quel video. Vi ricordate cosa accadde proprio a partire da quel filmato? Scrive Alessandro. Per mesi gruppi di studenti minorenni caricarono online e si vantarono delle loro imprese violente nelle scuole, motorini in corridoio, calci alla cattedra in classe. E finalmente, scrive Alessandro, e questo è il motivo per cui loda il fatto che Google non abbia censurato il video, finalmente si poté incominciare a parlare pubblicamente di bullismo. Ricordo l'incredibile funzione educativa a livello nazionale che ebbe questo video, che ci fece indignare e dire finalmente queste schifezze schifezze sono emerse. Quindi questa posizione diciamo di assoluta apertura nei confronti della rete, nel senso che sì, è vero, certi spettacoli, certi video raccapriccianti comportano un problema di responsabilità per chi in qualche modo consente la loro trasmissione, la loro diffusione, però hanno anche poi il vantaggio, che è il vantaggio, verrebbe da dire, un po' di tutta l'informazione, di portare alla luce un problema che magari si preferirebbe occultare, di cui magari si preferirebbe parlare un po' meno. Questa la posizione un po' meno solita o più insolita che viene presentata da Alessandro, che è un lettore che, ripeto, ha scritto a vita proprio sulla vicenda di Google. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando in qualche modo di scuola, in realtà parlavamo di rete, parlavamo di Google, parlavamo del futuro della rete e del futuro della carta, ma siamo andati a finire poi sulla scuola, un argomento che è spesso affrontato naturalmente dai magazine, dai settimanali italiani, ma anche stranieri. Di frequente capita di imbattersi in notizie che, con maggiore o minore enfasi, con maggiore o minore spazio, spiegano o segnalano qualche problema, appunto, connesso al mondo della scuola, alla formazione, all'educazione in generale. Ad esempio, noi abbiamo letto qualche volta qui proprio a Magazine 24 della difficoltà che noi italiani abbiamo nella matematica e nell'aritmetica, in generale nelle materie scientifiche. Finiamo spesso in fondo alle classifiche, o comunque indietro nelle classifiche internazionali che misurano la nostra capacità, appunto, in queste materie. Però in qualche modo, se può far piacere, anche in Francia non se la passano meglio, a quanto sembra, perché leggo sul Nouvel Observateur un piccolo articolo non firmato che dice che il 3% dei francesi in età adulta è praticamente zero nel far di conto, cioè ha una sorta di impossibilità a eseguire i calcoli. Dice: spesso ci si interessa dell'analfabetismo, ma molto meno ci si interessa di una forma di discalcolia, che potrebbe, questa è la parola francese più o meno, e che però, insomma, di fatto l'incapacità a fare di conto, l'incapacità di fare dei calcoli. Il risultato di uno studio del professor Jean-Paul Fischer dell'Université di Nancy II costituisce quindi una sorta di grande rivelazione, perché dice che su 10.200 adulti francesi, ripeto, da 18 a 65 anni, questa incapacità di fare di conto riguarda il 2,95% del suo campione, quindi tra cui, tra l'altro, uno 0,55 di incapacità totale di far di conto. Bisogna capire che tra i preadolescenti questo tasso è dell'1,1%, quindi in età adulta ci sono più persone che non sanno fare, non sanno più far di conto, non sanno più eseguire le operazioni fondamentali dell'aritmetica, rispetto a quante se ne trovino nell'infanzia, nell'età che precede l'adolescenza. Sembra che questa inadeguatezza all'aritmetica non sia affatto innata, ma sia proprio una cosa che si acquisisce. Tra l'altro sembra peggiorare con l'età e con l'abbandono poi della pratica nel fare i calcoli. In effetti, con i computer, con le calcolatrici, con i vari sistemi di calcolo, i vari fogli di calcolo di cui disponiamo, il ragionamento aritmetico non è quasi più necessario nella nostra vita quotidiana, o in qualche modo possiamo farne a meno. Tuttavia, constatato proprio il professor Fischer, il ragionamento aritmetico è assolutamente essenziale e resta assolutamente essenziale per capire la società in cui si vive. Quindi, se addirittura il 3% dei francesi adulti, come si avverte qui, non è in grado di far di conto, questo poi può procurare dei problemi, non tanto nel semplicemente fare i conti, ma nel capire il mondo e il paese in cui si vive. E visto che siamo su Nouvel Observateur, siamo passati in Francia, un'altra notizia che viene invece descritta con molto, molto maggiore spazio proprio da Nouvel Observateur questa settimana, per la penna di Gourvan Le Gaillec, è quella della forza di polizia impiegata ormai in pianta stabile sugli autobus che da Parigi vanno verso la banlieue, cioè la periferia. Ricorderete qualche anno fa anche le rivolte che avevano caratterizzato, specie da parte dei più giovani, le rivolte che avevano caratterizzato alcuni paesi, alcune cittadine della cintura attorno a Parigi. La situazione non sembra essere granché migliorata, se appunto, leggo da Nouvel Observateur, a bordo di diverse linee di autobus, che vengono definite dal titolo linee ad alta tensione, ci sono stabilmente dei poliziotti che viaggiano per evitare appunto che ci siano degli atti di violenza, dei soprusi, ma questo non migliora poi, giudicare dalla cronaca che ne fa Le Gaillec, non migliora granché l'atmosfera. Perché è un po' come una classe in gita scolastica, riferiscono i passeggeri e i guidatori. Gli elementi migliori sono davanti e quelli, diciamo, meno controllabili poi si vanno a sedere dietro, si vanno a sedere in fondo. Spesso anche il fatto di chiedere il biglietto viene vissuto come un sopruso, come una intollerabile richiesta appunto da parte dell'autorità, in quel momento da parte dell'autista. Questa è la segnalazione che si trae appunto da queste linee di autobus a così alta tensione. Ovviamente si riferisce anche dei problemi che hanno poi gli autisti di questi mezzi, che riescono con difficoltà sia a svolgere il loro lavoro, sia proprio a resistere in queste condizioni. E allora restiamo in qualche modo all'estero, affrontando invece tutt'altra questione, quella di un'azienda modello. Spesso si parla di aziende modello, questa settimana ce ne ha parlato l'Espresso. L'Espresso racconta come si lavora e si vive alla SAS, una società che produce software, si trova nel North Carolina, una società che tra l'altro è una dei leader mondiali del mercato. Ebbene, questa è una società che viene definita azienda da sogno perché provvede davvero un sacco di benefici, di servizi per i suoi dipendenti. Bisogna magari precisare, l'articolo di Antonio Carlucci che è stato sul posto è molto dettagliato, ma vale la pena appunto di precisare che in America questo tipo di servizi è particolarmente gradito perché, come sapete, non c'è una rete sociale o di welfare, potremmo dire, da parte dello Stato così presente come accade nei paesi europei. Ecco, allora vediamo che cosa garantisce la SAS ai suoi dipendenti. Dunque, innanzitutto, per quanto riguarda la sanità, i costi della sanità sono coperti da un'assicurazione che viene pagata al 90% dall'azienda, e ogni volta che un dipendente ha un problema, influenza, dolore alla schiena, analisi del sangue, un mal di denti, a due passi dall'ufficio ha un centro dove ci sono medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici di laboratorio e psicologi, 56 persone in tutto che sono al servizio di questi 4.200 tra impiegati, quadri e dirigenti, con un servizio totalmente gratuito, tranne che se uno tranne il caso in cui si prenda un appuntamento e poi invece non ci si vada, in quel caso vengono chiesti $10. Tutto questo, spiega Carlucci, costa all'azienda $4,5 milioni ogni anno, ma allo stesso tempo hanno calcolato che così facendo risparmiano $5 milioni, perché quello sarebbe più o meno il corrispettivo delle ore perse per raggiungere, ad esempio, il medico personale. Tutta la storia di questa azienda è improntata appunto a questa estrema disponibilità di servizi e di estrema comprensione, estrema facilità di lavoro nei confronti dei dipendenti. Ad esempio, spiega il suo fondatore, che poi è naturalmente anche il vertice dell'azienda, il capo dell'azienda, James Goodnight, dice: se uno è chiamato alla sfida di creare qualcosa come un software, non deve annoiarsi mai, non deve avvertire il peso di andare al lavoro, e quindi l'azienda cerca di risolvere un po' tutti i problemi che si possono presentare per il dipendente. E sembra funzionare perché, dicono i dati, chi entra in questa società, la SAS non ha voglia di uscirne, tant'è vero che il turnover, cioè il ricambio, è del 2% all'anno, contro una media americana del 22% nelle società che producono software. Tra gli altri servizi, non sai come smettere di fumare? C'è un consulente che ti aiuta. Hai un genitore anziano che non è più autonomo? C'è qualcuno che è pagato apposta per darti dei consigli, per aiutarti. Addirittura anche chi è interessato alle adozioni trova un ufficio con un legale, uno psicologo, insomma tutte le istruzioni necessarie. Questo succede in California, nella North Carolina, questo ci racconta l'Espresso in edicola questa settimana. Ed era la nostra ultima segnalazione per oggi. Io ringrazio Paolo Corleoni che mi ha assistito in regia anche questa mattina. Ringrazio naturalmente Emanuela Sicuro e Vittoria Mussini, nonché Margherita Aina, da pochissimo entrata a far parte dello staff di Magazine 24. Vi do appuntamento sabato prossimo per chi vuole sentire in diretta alle 8:30 Magazine 24. Rimando invece al nostro sito www.radio24.it per riascoltare questa puntata, così come tutti gli altri programmi della radio che state ascoltando adesso. Grazie e buona domenica a tutti.